5, eh? 8, dice, va bene, dai, va benissimo, ancora 3, non c'è nessuno da qui, tutti sotto il letto sono, non c'è nulla a fare, sono tutti sotto il letto, oiuia. L'hanno fatto, gli ha fatto, dai, no? Sono qua soltanto. Ma dice a Diego, sì. Ma Diego l'ha soltanto, ma che? Se Diego l'ha soltanto, ha detto, se la chiesa l'ha soltanto, la chiesetta. Ok, adesso ci sono altro, sì. Andava, va benissimo, vediamo se c'è il cuore, sono ancora per essere sotto il letto, bene, continua da chi, vai, vai. Adesso sei sceso un po' di segnale, adesso in guardi 3-3 qualcosa, eh. Adesso sei arrivato a 5, non è di sali o non ti scendi. Vai a sera, sei già passato, sì. Già va bene, guarda. Va benissimo. Vuoi comprare un microfono auricolare, quello che non mi dispiace nulla. Non lo so, non ce l'hai qua parecchio, no. Adesso sei vicino al riflettore, così è. Al riflettore sei passato, sì. No, ci siamo sotto modulati. Al riflettore sei passato, sì. Capito, capito, vai. Continua a arrivare, già sono qui, va chi vai. Ok, vai, già sono ascolto, vai, guida, guida, vai tranquillo, vai. Ma chi sei? Sono Marino. Giulio, buonasera. Ciao, Mike. Sono acceso, c'è la chiesa in macchina, non lo vento, l'ho accompagnato fino a un pezzo, poi mi ho detto guardare a guidare, già stiamo in ascolto. Tutto ok, tutto ok. Stiamo preparandoci un po' di roba, roba per andare a lavorare per domani mattina. Ho acceso, sto facendo scaldare, ma va bene, va, avanti. Io l'ho lasciato accendere poc'anzi, ho fatto la commissione qua vicino e io ho preparato, mi stavo portando la roba, poi ho scelto qualche portante, c'è la battiglia, il movimento, campagna proprio a casa sua, bene, dunque gli ho detto di guidare che io non mi ascolto, va, voglio pensare a guidare prima. Sì, che ti ascolto, ma chi sta, buonasera, avanti. Quando vai a casa accendi e facci sentire da casa, dai. Ok. Non correre, non correre, ma chi vai piano? È che è un po' pilata, mi macchina, però un po' pilata è il macchino. Ma vedo molto veloce, vai, fai così, no, già rallentato, sì. Adesso già va piano, piano, piano, già va bene così. Cazzo, prima pompava, adesso pompa il nero giù. Infatti, non c'è motivo di correre troppo. Piano piano, come dice il proverbio, chi va piano passare va lontano. Molti vuole andare piano, però magari quelli che sono cancellati, quelli hanno più fortuna tante volte. E quella è la fregatura, capito? La fregatura è quella. Tu vai piano, ma di culo in latte, di culo. La prova tua è solo qua. Oi, oi, oi. Vabbè, ieri non andate fuori o a casa? A casa, va via a casa. Con questo caldo pure se ci ha messo, oi, si sta meglio a casa, almeno se è fresco, non stai via a sudare troppo. Esatto, no, anch'io a casa, ho sceso il cognato, cosa l'altro e... Abbiamo fatto il fuoco, va, già è passata la giornata, già va bene. Lavorare, sono io, ma sì, va ancora a lavorare, domani penso che riprenda, almeno quelli che lo sono in finti, poi piano piano rientreranno tutti. Eh sì, io domani alle 3 sono già in piedi. 4 ci sto scendendo giù. Alle 4. Non è che oggi ho le cose perché sto facendo le domeniche. Dunque, tutto qua. Avanti. Acceso e ho fatto delle faccende, adesso mi sono preso, sono stato chiuso, sono importante e sono entrato, tutto qua. E mi stavo girando, ma non c'è nulla, non c'è, sono zero, è proprio zero. Oggi preparazione zero e proprio zero. Ogni tanto sono qualcuno a basso proprio, boh, e vabbè, anche un po' strana la preparazione. Quindi diciamo che va via, boh, va bene, già va bene così. Intanto sono parecchio senza sentirlo, come dirsi. E anche lui sta lavoricchiando, anche lui piano piano. Già ti chiamo io, sei in casa, ok, ciao. Ok, d'accordo, poi ciao, ci chiamo. Sì, avanti. Ma che tipo di guerra è me questo? Quasi lo darei un risultato, quasi. Ora. Attenzione, il binario VG3, cambio. Ciao Gianni. Sì. Ciao Giulio. Sì, mi chiedo l'ascolto. Poco fa stavo parlando con Mario, poi si è dovuto allontanare, per cui sono da solo. Vabbè, l'ho acceso 10 minuti fa e non è che era molto. Sì, sempre qualcuno che io ieri vi ho ascoltato, però non sono entrato perché stavo facendo roba, lo so, no, è una cosa più curiosa, ho chiamato anche in PNL, ho chiamato, per farmi capire che c'era qualcuno al fondo, ha detto la portata, siccome si accende lo stereotipo, e dunque ho capito che c'era qualcuno, però non l'ha parlato, allora l'ho mandato a Diavo. Mi dà fastidio quando stanno sempre sulla frontale, quello mi dà un freddo, guarda. E sempre spesso, quando sento due figli, lo fanno apposta, sono proprio le cose. Ma quella gente imbecille, basta, io non considero imbecille, la gente che fa così, tanto non può essere diversamente. Ma quando mai non mi dà fastidio sentire il rumore, perlomeno anche, posso capire che è silenziato la radio, ma non sente rumore. Ma se c'è qualcuno che chiama, oh stai fermo, è secco, è colpito, cosa me ne frega se tu mi fai vedere che ci sei in ascolto, però poi non parli. E ti devo mandare al diavolo per forza, no? È Belgio, come stai? Bene, ho qualche piccolo residuo, però diciamo che ormai è finita la storia, dai. Meglio così, dai. Speriamo che ci ripetiamo questo. Io invece sono andato a fare la camera ipervarica e mi ha chiuso tutto, sai. Come ti ha chiuso tutto? Perché non riesci a respirare? No, non è quello. Tutto perché avevo quel produce la diabetica per chiudeva. Adesso sì, con la camera ipervarica. Però siamo stati a riposo, adesso perché ancora al centro si sta formando la casa, capito? E praticamente la camera ipervarica non si fa solo per me, anch'io pensavo che facesse solo per gli embolizzati, eccetera, eccetera, invece non è così. L'ossigeno praticamente ossigena il sangue facendo la camera ipervarica al doppio. Quindi fa sì che la camera riesca prima, capito? Poi mentre tu fai la camera ipervarica ti cura tantissime cose, ti ripristina tutto l'ossigeno che c'è nei polmoni, ti fa guarire dal fegato, dopo dire che sei guarito il fegato, un sacco di roba che fa. Non sapevo che fosse lui. E vabbè, comunque grazie a Dio c'è qui dove ci fa adesso. Meglio così. Così almeno. Sì, che praticamente come quando succede così, praticamente guarisci dal diabete, così è. Radio. Oh, signor Bacchisio, attenzione, signor Bacchisio. Vreste, Bacchisio, Giulio. Qualcosa basso basso, Bacchisio, dove sei? Sei io al zero, Bacchisio. Sì, non ascolti adesso. Adesso sì, adesso va bene. No, perché era spostato sull'altro e sto ascoltando. Adesso ascolto bene, benissimo. 9.10, signore, non è così, il giorno più basso? Come, basso? No, mi è confuso prima, sì. Adesso ho spostato la leva. Siccome il commutatore era sull'altro apparato, questo era annullato. E ho parlato quando la leva ancora non l'ho spostata, capito? Non ho fatto il cambio. Va bene, va benissimo. Ok, siamo su Renzi, poi caso c'è Giulio, vediamo, poi mi sono tanto che mi sta chiamando un po' tanta gente, adesso mi sono liberato, tutto qui. Giulio, forse Giulio ha chiuso. Squalo sta pescando, avanti da qui. Lasciare perché ora di merendero per me deve iniziare, sono le 8:05 già, comunque sono già in ritardo. Bene, Marino, ci sentiamo domani, ci arriviamo, se ci sono bene, ciao, ci sentiamo. Ciao, ben sentito, sono in casa, se concilia domani, va. Ok, ciao.